America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Proteste, dimostrazioni, devo dire dimostrazioni pacifiche, però molto ferme un po' in tutta America, un po' una riflessione conclusiva su quello che è stato il verdetto che ha assolto George Zimmerman dall'accusa di aver assassinato Trayvon Martin, il 17enne di colore in Florida. Ecco, queste dimostrazioni sono state molto probabilmente più tranquille di quello che potevano essere, perché il presidente Barack Obama, in un discorso alquanto straordinario venerdì, ha parlato alla nazione, lo ha fatto in modo molto personale, non ha voluto mai criticare l'esito del processo, ma ha cercato di spiegare quale fosse il contesto razziale. E di questo, devo dire, si è parlato ieri un po' dappertutto nelle trasmissioni televisive della domenica negli Stati Uniti. Ve ne propongo una per tutte, quella più seguita forse, Meet the Press con David Gregory. In una tavola rotonda si è parlato del discorso di Obama, di quello che significava e ovviamente di quello che è successo in Florida. Sentiamo. I was very proud. I think that it was timely, but more importantly, I think that he could feel the anger that was going around across this country, and he felt that he needed to respond. Marsha Fudge, deputata democratica dell'Ohio, dice: sono stata molto fiera di quello che ha fatto il presidente del suo discorso. Marsha Fudge è una deputata afroamericana, ma soprattutto dice: credo che il presidente abbia ascoltato la rabbia dei manifestanti e ha sentito il dovere di rispondere. La rabbia dei manifestanti, non la violenza, non la protesta violenta, non la guerriglia urbana. He did not walk to the podium for an impromptu address to the nation. He was pushed to that podium. Tavis Smiley, più critico. Beh, Tavis Smiley conduce una trasmissione su PBS, ha attaccato il presidente, secondo lui avrebbe dovuto parlare molto prima e ieri ha detto, ho apprezzato il discorso del presidente, però insomma chiariamo una cosa, perché qui circa una leggenda che il presidente a un certo punto ha deciso di andare a parlare spontaneamente. In realtà a quel podio il presidente è stato trascinato, spinto da una settimana di proteste. Ecco, una critica al presidente Barack Obama, che spesso sembra non reagire in modo molto deciso, ma sappiamo il presidente è un uomo riflessivo. E infine Charles Ogletree, che è un professore di legge a Harvard, tutti quelli che sono intervenuti erano afroamericani, dunque un dibattito interno alla comunità afroamericana, chi a favore di Obama, chi contro. Sentiamolo. President Obama has been talking about race and doing things about race for a long time, and the reality is that he walked to the podium, he wasn't pushed to the podium, he walked to the podium. Ogletree risponde subito a Smiley: non è stato spinto su quel podio affatto, è andato su quel podio a parlare e ha detto: apriamo un dibattito, perché il problema razziale in America è ancora aperto. Apriamo un dibattito. Dunque Barack Obama aveva parlato del problema razziale nel 2008 e ne ha riparlato, vi dicevo, venerdì con questo discorso che secondo me è molto importante, perché è un discorso che cerca di spiegare la componente razziale. È un discorso che Obama, e questo lo sottolineo, fa soltanto all'America, ma fa anche all'Italia e soprattutto a coloro che in Italia hanno difeso le parole di Calderoli contro la Chieng, che erano state ridotte così a una battuta, ma insomma, ma inutile prendersela, ma cerchiamo di scherzare. Ebbene, ecco, il presidente Obama ha spiegato perché su certe cose non si può scherzare. Sentiamo il presidente. When Trayvon Martin was first shot, I said that this could have been my son. Another way of saying that is Trayvon Martin could have been me 35 years ago. Ecco, il discorso del presidente è stato breve, 17 minuti a sorpresa. Ha deciso di parlare nell'atmosfera informale della sala stampa della Casa Bianca, un incontro convocato all'improvviso, senza che ci fosse sentore che il presidente potesse intervenire. Si è raccontato come il presidente abbia sofferto molto in questi giorni, abbia ascoltato molte persone fino a decidere poi questo suo intervento. In questa prima parte chiarisce, questo è molto importante, che non ha nulla da criticare nei confronti del processo. Un processo, dice, che si è svolto in modo professionale, l'accusa e la difesa hanno esposto le loro argomentazioni, la giuria ha emesso un verdetto. Questo è il modo in cui funziona il nostro sistema giuridico. Un punto molto importante: Obama non critica, non attacca la sentenza come hanno fatto molti. Quello che vorrei aggiungere, dice, è un po' di contesto e parlare di come la gente si è sentita e ha risposto a questo giudizio. Lo sapete, dice, quando Trayvon è stato ucciso ho detto che avrebbe potuto essere mio figlio. Però, e questo è un punto molto forte di questa sua dichiarazione, io stesso avrei potuto essere Trayvon Martin 35 anni fa. E quando pensate al perché c'è tanto dolore per questa sentenza, credo che sia importante riconoscere che la comunità afroamericana ha passato una serie di esperienze nel corso della storia difficili da superare. There are very few African American men in this country who haven't had the experience of being followed when they were shopping in a department store. That includes me. There are very, very few African American men who haven't had the experience of walking across the street and hearing the locks click on the doors of cars. That happens to me, at least before I was a senator. Obama continua, ecco, ascoltatelo perché è davvero molto importante per capire quale sia la percezione, mettersi nelle scarpe di coloro che vengono umiliati costantemente, cosa che mi sembra appunto che Calderoli ed altri non abbiano fatto. Obama continua. Ci sono davvero pochi afroamericani uomini in questo paese che non sono mai stati seguiti facendo compra in un supermercato, me incluso. Pochi che non hanno sentito il click della sicura scattare passando accanto ad una macchina, a me è successo. Pochi che nel prendere l'ascensore con una donna non l'hanno vista tenere stretta la propria borsetta e trattenere il fiato fino all'apertura delle porte. Non voglio esagerare con questi racconti, ma queste sono cose che aiutano a spiegare come la comunità afroamericana ha interpretato quello che è successo in Florida. Inoltre, c'è una lunga storia di disparità nell'applicazione della giustizia rispetto alla comunità afroamericana e questo finisce per avere un impatto su come la gente interpreta questa sentenza. Folks understand the challenges that exist for African American boys, but they get frustrated, I think, if they feel that there's no context for it. And that context is being denied. Questo, conclude Obama, non vuol dire che la comunità afroamericana ignora il fatto che c'è una grande sproporzione nel numero di giovani che commettono crimini tra bianchi e neri. Non ignora che statisticamente un ragazzo come Trayvon Martin ha più probabilità di essere ucciso da un ragazzo come lui che da qualcun altro, ma la frustrazione nasce dall'assenza di contesto e dalla negazione che un contesto esista, lo ripeto, perché questo ci riguarda direttamente, la frustrazione nasce dall'assenza di contesto e dalla negazione che un contesto esista. E tutto questo contribuisce all'impressione che se la stessa cosa fosse accaduta ad un ragazzo bianco, il risultato e il seguito sarebbero stati diversi. Parole forti, dunque, quelle del presidente americano che cerca di far capire a chi non lo capisce perché un nero si sente umiliato nel momento in cui viene aggredito verbalmente con riferimenti specifici al colore della sua pelle. Ecco, con me ai microfoni di America 24 Massimo Gaggi, corrispondente del Corriere della Sera, spesso ospite al nostro programma. Buongiorno Massimo. Buongiorno Mario. Bene, allora che reazione hai, Massimo? Insomma, hai sentito le parole del presidente, questo sottolineare il significato dell'umiliazione che forse molti anche da noi, come ho detto, non capiscono. È un discorso anche per l'Italia, Massimo. Sì, sicuramente è un messaggio che ha un significato anche per l'Italia. Ovviamente è una presa di coscienza molto più difficoltosa probabilmente in Italia, perché non c'è la storia che hanno gli Stati Uniti di rapporti con la comunità nera che vengono da lontano. Noi li abbiamo avuti, questi cittadini di colore, in modo abbastanza casuale, non ci siamo preparati e l'abbiamo vissuto all'inizio come un fatto un po' folcloristico e questi sono i risultati. Poi non siamo mai riusciti a viverlo come un problema sociale, istituzionale di prima grandezza. Ci spinge a comportamenti profondamente sbagliati. Ecco Massimo, tu eri a Detroit, una città dove insomma sui 700.000 abitanti 500.000 sono di colore. Hai percepito un'umiliazione diversa per il fatto che questa città è andata in bancarotta? Ma la rabbia sicuramente c'è. Non sono sicuro che la cosa venga vissuta sul piano razziale, perché il governatore, tutto sommato, consapevole appunto di questo rischio, della storia martoriata di questa città, dalla quale molti bianchi, molti cittadini del ceto medio se ne sono andati già decenni fa per andare nei sobborghi più ricchi a nord della città e sul lago, il governatore è stato molto attento fin dall'inizio della crisi, in più occasioni, a cercare di gestirla insieme al sindaco nero Bingham, che ha ammesso che a questo punto, pur avendo lui cercato di evitare questa conclusione drammatica, era probabilmente l'unica cosa da fare. Quindi il tentativo di evitare che anche qui si crei una situazione razziale difficile è stato sicuramente fatto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana, ma soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi ho parlato di questo messaggio di Obama, un messaggio che ha cercato di aprire un dialogo nel nome del rispetto. Da una parte rispetto della sentenza, dall'altra rispetto dei sentimenti di una comunità, quella afroamericana, che ha sofferto una storia di ingiustizia, umiliazione, sta cercando di tornare alla normalità. Dunque, mi sembrava giusto proporvi di Aretha Franklin, Respect. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!